sembra tremendo, orrendo. Lo devo sopportare, lo devo superare, mi devo confrontare. Ci sono dentro. Sai quello che vuoi, ma non sai quello che sei. Speri di cambiare tutto, ma non lo farai. Sai che non sei ciò che sei, ma non sai quello che sei. E ora ci toccherà raccogliere i cocci di una vita passata, pensando, sognando, ridendo amaramente, ma ridendo.